in un mondo che non esiste più e mi chiedo perché. Sento sempre tanto freddo intorno a me e seguo il vento anch'io, aspettando che il cielo torni sereno. La mia vita dov'è? Sembrava così semplice. così riesco a fondermi, con un ritmo così riesco a muovermi, in un ritmo così riesco a fondermi, con un ritmo così riesco a muovermi, in un ritmo così riesco a muovermi, ed io mi fermo qui. Fermo qui.